muskurane ki wajah tumho gungunane ki wajah tumho jia jae na jae na jae na ore piare jia jae na jae na jae na ore piare jaina jaina jaina aur piyare